L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La Zanzara è un programma della Madonna. Luciani, tu sia maledetto. La persona che mi ha fatto conoscere questa trasmissione ieri mi ha confessato un segreto. È diventata vegana e parla di esseri senzienti. E tutte le sue motivazioni sono le stesse che ha sentito alla Zanzara. Quelle che di cui parlano tutti i vegani. È colpa tua, è colpa tua. Cose da non credere, ragazzi, cose da non credere, cose da non credere. Parenzo, tu da Padova forse ti è arrivata una voce lontana, quella di Massimo D'Alema, ormai un personaggio ai margini della politica italiana, diciamo, conta qualcosa ancora nei gangli del Partito Democratico, però, questa volta si è messo a parlare di Islam e di 8 per 1000. Io sono certo che tu gli dai ragione. Non so perché, mi viene qua una vocina. Ho una... no, un presentimento. O sbaglio. Oh! David! David! David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Allora, sentiamo quello che ha detto D'Alema, dai, sull'8 per 1000, vai. Io vorrei che queste persone si sentissero a tutti gli effetti cittadini europei. Preferirei che potessero costruire le loro moschee come si costruiscono le chiese, cioè con il denaro pubblico. In Italia c'è l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, ma c'è 1,5 milioni di musulmani che non sono riconosciuti, con i quali noi non abbiamo un'intesa, diciamo. Cioè, D'Alema propone l'otto per mille per le moschee, cioè di dare una parte dell'otto per mille, o quello che rimane dell'otto per mille, non so nemmeno come si chiama adesso, per le moschee, per la costruzione delle moschee, per le comunità islamiche. Signor D'Alema! Un'altra frase, vi prego, su cui soffermarsi oggi è quella di Alfano, del signor Alfano, che vuole che gli italiani facciano i figli. Ora, ti pare normale che il ministro degli interni esorti gli italiani a fare i figli? No, questa è una stupidaggine. Ognuno fa il cazzo che vuole, Alfano. Ognuno fa quello che vuole. Da una parte c'è la Cina, che non so quanto tempo fa, c'era la politica, no, per non fare più figli, no? Ti ricordi? No, bloccava la questione dei figli maschi. Esatto. No, sì. O no, delle donne, che dici? Delle donne. No, che però cazzo non mi, siccome non mi sentiva, non capisco perché io ti sentivo bene. So perché. Che hai fatto polemica su D'Alema. Certo, l'8 per 1000 per la... Ecco, no, ma io spero che l'avevo diffuso bene. Si ha detto per una cosa non giusta, di più. Ma non cioè tu vuoi dare i soldi per la costruzione delle moschee? Ha detto devi dirla tutta, costruire moschee con soldi pubblici. Ma dico, ma sei pazzo? Ma no, sei ma pazzo? Attento, togliere tutti i finanziamenti alle religioni, tutti. Fare l'8 per mille con i musulmani vuol dire intanto riconoscerli. Quindi con non me ne frega niente, io non voglio riconoscere nessuna quindi religione, non voglio riconoscere nessuna religione. E obbligare a controllare i propri iscritti. Ma falla fine. Questo comunque vuol dire. Sentiamo Alfano, va, che vuoi buttare tutto in vacca. No, non voglio buttare in vacca, io non voglio riconoscere nessuna religione. Lo Stato non deve riconoscere nessuna religione. La confessione religiosa ha un accordo. Non me ne, no, togliere questi accordi. Togliere via questi accordi. Via questi accordi, tutti via. No, tutti via, non mi interessa, è una cosa privata la religione. Non c'è nessun accordo tra autorità e religione. Via, tutto via. Lo Stato riconoscendo. Non riconosce niente. Io riconosce le organizzazioni. Bene, voglio riconoscere i fruttariani, l'organizzazione dei fruttariani. Ma quali fruttariani? Ho capito, io ho la religione dei fruttariani. Ma quali fruttariani? Io sono fruttariano. Voglio riconoscere i fruttariani. Sono il capo. Otelma, perché non deve essere riconosciuto Otelma? Il signor Otelma ha una setta. Otelma venga riconosciuto dallo Stato. Otelma e i suoi seguaci. Sì, certo, anche cioè, assolutamente. Otelma vale come il capo della religione, come il Papa. Per me, Otelma è come il Papa. Beh, sì, ti devo rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Alfano. Se non vogliamo dipendere nei prossimi anni o decenni dall'immigrazione per quanto riguarda la tenuta del welfare oppure una serie di lavori, occorrerà che gli italiani abbiano la voglia e la forza di continuare ad investire sul proprio futuro facendo figli, perché un paese senza culle è un paese senza figli, è un paese senza futuro. Oddio, già sentire Alfano mi provoca un piccolo sturbo a me. Ma non è così stupido il ragionamento, Ma Davide, sei veramente. Cioè, ma uno può fare i figli. Se uno non vuole fare più figli, cioè, non fa i figli. Il ragionamento non è che dice che devono fare i figli. Lui beh, dice sì, un spinge, paese che fa pochi figli, è un paese che ha poca fiducia. Ma non è vero, poi ognuno fa i figli che vuole fare e che può fare, no, chi se ne frega. Ma non è così, che se tu sei ricco. Nei paesi più avanzati, con economie più avanzate, tipo Israele, tipo gli Stati Uniti, eccetera, dove c'è un dinamismo sociale più forte che da noi, la gente non ha paura di fare figli. Ma lasciamo perdere la paura. Del futuro, sì, insomma, certo, no, tutte puttanate. Anche questa componente qui, molti in Italia non possono fare. Ma è una, ci sono una marea di poveracci che fanno 5, 6, 7 figli in tutte le periferie. Attento, in Italia molti non fanno più del primo figlio. Vabbè, sì. Perché sanno che hanno una precarietà del lavoro che magari non gli consente. Parliamo pure di precarietà del lavoro e siamo finiti. Allora il Papa sostiene che la causa delle guerre sia la vendita delle armi. La vendita delle armi, amico mio, dai. Ma sono veramente cose che non da terzo mondì, ma cose da proprio di ma è veramente una cosa incredibile questo Papa. Nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno, che si dicono delle puttanate qualche volta. Anche il Papa dice delle puttanate. E infatti Feltri giustamente gli risponde in questo modo. Stamattina, per esempio, ho sentito una frase del Papa che mi ha lasciato di stucco. Francesco sostiene che la responsabilità maggiore del terrorismo è dei venditori di armi. Insomma, qui siamo veramente un po' al delirio, perché se fosse vero un fatto simile, allora Gesù Cristo è stato ammazzato dai falegnami. Fra l'altro Gesù ne aveva uno in casa di falegname, che era suo padre. Cioè, non è che i venditori di croci, di legno, sono la causa della morte di Gesù Cristo. Dai, su, ma di che stiamo parlando? Se uno decide di fare la guerra, lo fa a prescindere dai. O il terrorismo lo fa a prescindere dai venditori di armi. Sono dai, su, cause, ragazzi. Infatti, ma certo. Quali con cause? Dai, il Papa che parli di cose più serie, dai, no? La vendita delle armi. Si occupi del perdono, di lavare i piedi alla Pasqua, dei fedeli, di queste cose qui, dai. Oh, le stragi come i tamponamenti in autostrada. Questa è una cosa esatta. Ormai siamo abituati a considerare le stragi come praticamente un tamponamento in autostrada. Più o meno è lo stesso, dai. Cioè, ormai è una cosa che ci lascia quasi indifferenti. Dopo due giorni, sì, l'emozione, le cose, poi ci siamo dimenticati tutto. Non mi stupirei se invece continuassero le stragi, e questo sarebbe veramente un dramma, perché la gente finisce per abituarsi anche agli attentati e non vorrei che poi li considerasse alla stregua di un tamponamento sull'autostrada. Allora, Red Ron in questi giorni molto charliero, parla parecchio ovviamente sul tema Pasqua, agnelli, vegani, eccetera, eccetera, ha detto che i bambini di istinto rifiutano la carne. Adesso io ho molta stima del signor Red Ronnie, no? Forse ha figli anche lui, anzi sicuramente ha avuto figli, non lo so, due figli mi segnalano, io ne ho una, tu ne hai tre. E ecco, non mi è mai capitato che d'istinto rifiutino la carne i bambini. Adesso francamente no. Ho questa grande esperienza. Però, caro Red, dove te la sei inventata? Dove l'hai scovata questa puttanata? Già nate, figlie, una è nata in quel periodo, un'altra era già, però già lei rifiutava la carne d'istinto, perché i bambini che ne dicono rifiutano la carne, tant'è vero che gliela, per abituarli, gliela mescolano negli omogenizzati. Beh, ma che c'entra? La rifiutano perché è dura, è più dura non quanto carne, cioè perché è solida, e dunque quando non hanno i denti non riescono ad afferrarla bene, caro Red. Non è perché la carne, non è perché rifiutano la carne, io divento pazzo. Allora, dice anche che non fanno notizia i bambini ricoverati per abuso di carne, cioè praticamente dice c'è un grande complotto carnivoro in Italia, nel mondo, per occultare le notizie dei bambini che non vengono ricoverati per abuso di carne. Voi avete sentito mai bambini ricoverati per abuso di carne? No. Però mai. Magari è colpa mia, eh. No, io fino ad oggi ho visto bambini ricoverati per diete vegane sbagliate. Ci sono due bambini vegani ricoverati. Quanti bambini carnivori vengono ricoverati per eccessi di alimentazione di hamburger o di patatine fritte o porcherie, però non fanno notizia. Sono a Padova sotto al salone in pescheria e chi ti entra Parenzo con prole. Devo dire, lo facevo più basso, non di molto, ma traffico. La zanzara. Al mio segnale scongelate l'agnello. Allora ragazzi, mi avvertono, caro Parenzo, tu non puoi vedere perché tra l'altro sei a Padova, nemmeno a Roma, che fuori dalla sede di Radio 24, qui a via Monterosa, lo dico a tutti i numerosissimi ascoltatori che sono qui, che sono in questo momento collegati, c'è un gruppo sparuto con fumogeno di animalisti che urla e grida delle cose incredibili, almeno da quello che mi dicono. Cruciani esce, Cruciani esci. Adesso cercheremo di collegarci, naturalmente. No, ma esci, scusa. Ma che cosa esco a fare? Cioè, devo essere in collegamento col telefono. Ma ho capito, ma aspetta un attimo. No, cioè... che aspetta? No, non fare il coniglio, esci. Ma io esco tranquillamente, non ho problemi. Andate alle 7, esco, non ho problemi. No, a me dispiace perché ma io devo fare la diretta, come faccio? Portatemi ma su qua. Adesso, portatemi su uno di questi stronzi, dai, su. Cercate di portarmi su uno di questi rincoglioniti. Ma cosa hanno fatto? Hanno sceso su un fumogeno? Che hanno fatto? Ma si può essere così, ragazzi? Molto, oggi molto bene, ho sentito la parola fumogeno, finalmente. Finalmente i miei amici stanno assediando quel covo di disgraziati confindustriali che lottano contro i diritti dei lavoratori. Mi pare una notizia straordinaria. No, in questo caso degli animali, in questo caso degli animali. Quali, gli animali siete voi che siete all'interno di quella gabbia chiamata Sole 24 Ore. Finalmente la stiamo espugnando. Compagni e compagni, sto arrivando con alcuni katanga. Cioè sì, abbiamo aspetta, tutti 70 anni. Aspetta un secondo. Andro... Sì. Sì, eccomi. Chi c'è là? Chi c'è là sotto? Abbiamo rappresentanti animalisti. Che credo cazzo vogliono? Che vogliono? Perché? Perché... Fronte animalista. Io conosco solo una fronte, amico mio, quella che abbiamo noi in testa, non il fronte animalista. Che vogliono questi qua? Fronte animalista. Che vogliono? Passamelo. Allora, chi è? Passamene ecco, uno. Allora ti passo il portavoce che si trova questo sì, momento davanti ma, sì. al Sole 24 Ore. Ecco, vai. Giuseppe Cruciani. Chi è? Eccomi. Chi sei? Sono Roberto del Fronte Animalista. Che sei venuto a fare qua sotto? Ma semplicemente perché ti vogliamo faccia a faccia. Fa, io sto conducendo il programma, amici miei, come faccio? Ti aspettiamo. Ma ti aspettiamo. Aspettiamo quando? Io faccio la radio, non è che faccio i confronti faccia quando a faccia. Quando è che finisci? Alle 9, avete acceso un fumogeno? Sì, che cosa? Sì, che sì, è? Ma mica siamo allo stadio. Mica siamo allo stadio. Non me ne fotto un cazzo, ti aspettiamo. Non okay? Siamo allo stadio per fare non cosa? Non me ne frega niente, ti aspettiamo. Ma perché cosa? Perché tu te la prendi con i più deboli, che qui non si può difendere. Adesso siamo qua noi, tu scendi e ci affronti adesso, ok? Innanzitutto decido io se scendere o no, capito? Fenomeno. No, tu decido scendi. Io se scendere o no, vabbè, capito? Quando hai finito il programma scendi, ok? Scendo, ma che sei impazzito? Io scendo perché quando voglio, ma chi solo sei? Con chi non si può difendere, perché non te la vita. Non io non me la prendo, io ho le mie opinioni, cosa? Le mie idee. Tu, sei un, non sono opinioni, tu sei un opinioni, tu sei un intollerante, non un fascista, chiaro? Non sono opinioni, è violenza sui più deboli, per nulla. Ma tu sei bagato in testa, okay? Sei. Okay. Ma curati, vatti a fare curare. Vatti a fare curare. Devi curarti, curati. Ti devi curare, okay. Ti devi curare. Okay. Perché non scendi? Non si possono accendere i fumogeni davanti a un po'. Davanti... Non si possono scendi? Non scendo perché mi confronto con le idee, non con i violenti, chiaro? Quale idea? Tu sei un violento. No, io sei tu il violento. Gli animali vengono uccisi per davvero. Cosa non sei... è un'idea. Cosa... Non è un'idea. Cosa sei venuto a fare, okay, qua? Cosa non sei è un'idea. Cosa sei venuto a fare? Affrontarti in che modo? Sono parole. No, non c'è nessun modo. Finché tu parlavi solo, ok. E allora? Adesso hai portato anche le pecore, ok? E allora? E allora? Allora cosa? Allora sei un violento. E allora cosa vuoi fare? Mi vuoi picchiare? Mi vuoi picchiare? Scendi. Ma che scendo? Ma figurati. Ma mando la polizia. Faccia a faccia. Ma quale faccia a faccia? Non ho detto che ti picchio. E allora cosa vuoi vedere? Guardami in foto se mi vuoi vedere. Guarda le foto. Apri Giuseppe Cruciani su Google e guardi le foto. Ti vogliamo. Per fare cosa? Per fare cosa? Quello che fai te. E dai, cioè fare e cioè un po' di show, facciamo un po' di show. Il fronte sotto, animalista. Facciamo un po' di ma show. Ma che non c'è un cazzo da fare tu? Che cosa? Un po' di oggi show alle 18:50 ah, che si vede invece tu che cazzo hai da fare? No, io vero, faccio eh? Il mio mestiere, sei tu che e fai, sei mestiere? Tu che non c'è un cazzo quale da fare il pomeriggio mestiere? E giri per Milano. Quale mestiere? Quale? Che cosa? Per fare un po' di audience. Sì, sì. Solo cosa sono? Un assassino? Cosa sono? Gli animali muoiono davvero. Sì, muoiono, certo che muoiono. Okay, è normale okay, che muoiano. C'è gente stupida e ignorante come te. Sì. Ok, muoiono. Ok. È normale che muoiano, amico mio. No, non è normale. È normale, che sì, è normale. Il mondo sta cambiando. Tu non te ne sei ancora accorto. Sì, il guarda, mondo se, mondo, se il mondo cambia okay, devi comandare tu. Siamo, sì, siamo tutti condannati. Siamo già sta condannati. Cambiando, sta sì, cambiando. E lo fai mondo, cambiare tu accendendo okay, i fumogeni qua sta sotto. Sta cambiando da solo. Ma sei il un mondo, poveraccio, okay? sei un poveraccio. Sempre più persone stanno diventando vegane. Sempre più persone si avvicinano all'etica. Etica, sai cos'è l'etica? Sì, lo so. Sai che cos'è l'etica? Sì. No, non lo sai che cos'è lo so, l'etica. Lo so, lo so. Non lo sai che cos'è l'etica, ok? Non lo sai, sì, ok? Che cosa finché sarebbe l'etica? Le parole, finché prendevi per il culo gli animalisti, sì, non me ne fotteva un cazzo. E invece? Adesso hai deriso gli animali. E allora lì, ho deriso okay? gli animali. Allora ma perché e gli allora animali cosa? Capiscono di essere derisi? Ma capiscono di essere derisi? Ma la devi smettere! Gli animali valgono mille volte te, valgono! Sì. Mille volte te, mille volte il 99% degli umani! Ok, sì. Cruciani, hai superato il limite, ti vogliamo faccia a faccia, scendi se hai coraggio, giù le mani dagli, che cosa? Dagli animali, questo avete scritto. Bravi. Quanto ci avete messo a fare sto striscione? Quanto ci avete messo a fare questo striscione? Beh, a te che se frega quanto ci abbiamo messo. Ma che mestiere fai tu, scusami? Non si deve fregare niente. Che mestiere fai qual tu? Qual problema? Il problema sono gli animali. Gli animali? Okay? Sì. Non sei tu, non è lo striscione, non è un fumogeno. Scusa, tu li hai mai okay? mangiati gli animali? Li hai mai mangiati? Eh? Li hai mangiati prima di diventare vegano? Mi sono evoluto, sai cosa? Sei un assassino anche tu. Quanti ne hai ammazzati? Tu quanti ne hai ammazzati prima? Quanti tu ne hai ammazzati? Involuto. Quanti tu ne hai ammazzati prima? Sei. Quanti sei. Ne hai ammazzati? Sei quanti ne hai ammazzati? Sei quanti involuto. Ne hai ammazzati? Vergognati, vergognati. No. Quanti no. ne hai ammazzati? Ma quanti smettila. Ne hai ammazzati? Che cosa? Quanti ne hai ammazzati prima io di diventare vegano? Io sono allora cambiato. Pentiti, vai in galera okay. allora. Io sono vuoi cambiato. Proteggere gli agnelli? Okay, a 20 vuoi... anni sono cambiato. Bene, tu a 20 anni. In 20 anni sai quanta gente sai quanti ne hai ammazzati? Io sono 23 anni che sono vegano. Tu quanti cazzo di anni hai, eh? Ma che state facendo là? Accendete i fumogeni, messa arriva la polizia, andatevene, sennò vi arrestano. Ma siete impazziti. Ma che cosa ci vuole così? Arresto, ci conoscono molto bene. Ma chi vi conosce? Niente chi vi conosce? Quello che facciamo noi ma di chi? Solito. Okay? Fronte animalista, okay. Ma di che sì, stiamo parlando? Sì, sì. Ma siete sì. fuori di testa, ma io vi. Chi è quel che ha detto schifoso? Ci che sono ha detto? I tuoi chi fans, è quest'altra qua? Luciani, che ha detto? I tuoi fans. Schifoso, che ha detto schifoso? Okay. Chi è quella là? Passami una donna animalista, ottima. Ma pensa a te. Dammi un animalista amica vostra. Spettacolare. Fammi no, parlare con un'amica. No, okay. Fammi parlare. C'avete una donna là oppure siete tutti maschi? Là, ma una... Dammi una, dai, dammi, una dammi una del fronte animalista. Qual è il una donna. Vabbè, purtroppo c'è la pubblicità, amico mio. Io non scendo comunque, perché. Vabbè, non scendere. Non scendo, restate lì. Ovvio, non ma chi? Ma che non ho il coraggio? Ma quale coraggio con un imbecille come te? Dai, su. Vogliamo salvare Zanzarina in cambio della tua verginità. Il segnale orario vi è offerto da. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Allora, Parenzo, ti aggiorno perché tu sei a Padova. No, so tutto, mi hanno già informato. Mi hanno detto che sei sceso giù, ma sei stato dietro il vetro protetto e non sei uscito. No, non sai niente, come al solito non sai niente. Allora, mi hanno aggredito 4-5, sì, ti giuro, 4-5 di questi signori mi hanno aggredito. Ma sei dentro la sede mi hanno, perché qualcuno ha aperto la porta. Era chiusa dall'esterno. Ma tu vai fuori. Aspetta, ma che vado fuori, non voglio fare a botte con nessuno, non sono un violento. Ma non devi fare. Qualcuno volevano solo picchiare. Volevano. No, non è vero, dai. Cazzo, ma c'eri tu qua oppure sei in poltrona a Padova a rompere i coglioni? No, io sono allora, in poltrona, stai tranquillo, capisco, fatti dire le cose. Allora, ti faccio il racconto di quello che è successo. Lo faccio a tutti quelli che sono in ascolto, anzi dico a tutti gli amici della radio, tutti gli ascoltatori di venire qua sotto, tassisti se questi criminali sono ancora qui, perché questi qua sono dei criminali. Sono dei criminali violenti, il fronte animalista, dei criminali violenti che non avevano nessuna intenzione di discutere, nessuna intenzione di discutere. Ma no, chiamane uno su in delegazione, uno. Non Pazzesca. Volevano fare nulla, sono sceso per quello, appena Manda mi hanno... Barisoni, è il nostro coppia. Ma è andato giù a mediare, non sai niente, lasciami parlare, non sai nulla, è andato a mediare giù, ma che cosa vuoi mediare, che cosa vuoi spiegare con queste Bisogna bestie? Dialogare. Sono delle bestie, appena mi hanno visto, sono entrati in 4-5 dentro, tra cui due donne donne assatanate, volevano picchiarmi. Picchiarti, volevano... Senti, David, vai a fare in culo, sto parlando seriamente. Questi qua sono dei nazi vegani animalisti violenti che hanno cercato in tutti i modi di venire allo scontro con me, cioè di picchiarmi, allora non di dialogare. Scusa. Abbiamo chiamato anche la polizia, ho cercato, poi mi sono presentato sotto, ovviamente, al di là del vetro, li salutavo, gli dicevo vi amo, eccetera. Chi c'è? Red Ronnie, ciao Red. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, questo è successo, capito? Adesso, al di là di come la si possa pensare, cioè io la penso diversamente da te, tu la pensi diversamente da me, eccetera. Questi del fronte animalista, questi del fronte animalista, che non so se tu li conosci o no, questi sono dei violenti. Sono dei violenti volevano solamente aggredirmi, chiaro? Allora, su questo hai perfettamente ragione. Io addirittura non ho neanche gradito l'altra sera alla gabbia. C'erano degli animalisti che parlano con molta violenza. L'animalista, se è vero animalista, è calmo. Però sbagli anche tu, perché tu dici io non sono violento. In realtà tu sei violentissimo. No, cioè, ultimamente, non puoi dire che io sono violentissimo, perché veramente mi fai incazzare adesso, veramente. No, perché nel momento stesso in cui tu prendi un coniglio, un cadavere di coniglio e lo fai vedere, ma è quello che puoi trovare in macelleria, qual è la differenza? Era per dimostrare, per fare una controcampagna di informazioni. Giuseppe, sei in radio, non sei in macelleria. Ma che c'entra? Inoltre tu lo fai per alzare i toni, per provocare. Ma io lo faccio perché sono convinto, non lo faccio in maniera strumentale. Però, sì, hai ragione, però tu fai questo nel momento stesso in cui vedi dei video drammatici sugli anelli e guarda sugli? Gli agnelli sugli? Dei video sugli agnelli. Sugli agnelli e guarda, gli agnelli hanno purtroppo un unico merito rispetto ai maiali, alle capre, alle galline, che sono carini e quindi sono come i gattini, i cagnolini e quindi si incazzano tutti. Tu che fai? Fai vedere che c'è un agnello che poi ammazzerà. No, io ho fatto vedere un agnello per dimostrare che non mi intenerisco, l'ipocrisia di chi continua a mangiare la carne e si intenerisce poi di fronte a un agnello. Io sono per la coerenza. Io mangio la carne, sono consapevole di far soffrire qualcuno, di uccidere qualcuno, perché è così. Sì. E dunque vedere un agnello non mi provoca nessuna emozione, capito? Sì, però tu hai alzato talmente i toni. Che cosa? Mi sono meritato questi quattro coglioni qua sotto? Questi quattro violenti qua sotto che mi volevano picchiare? Era l'inevitabile conseguenza. No, che... Red, non è così. Perché stai dicendo che io sono un violento. Tu hai detto che sono un violento e lì ti sbagli. Sì, hai detto che sono violento. Ma il tuo atteggiamento è sempre così. Ma no, ma ti sbagli, dai. Tu alzi toni, tu ad esempio quando fai anche le interviste, vedi anche Alba Parietti, tu mi vuoi far dire... Ma che c'entra questo? Dai, non diciamo stronzate, Red, adesso per favore, io sai che ho grande rispetto per le tue idee, tu sei stato ospite in questa trasmissione, puoi dire quello che ti pare, non mi pare che ci siamo ammazzati o volevi picchiarmi, questi quattro qui bisogna distinguere tra le persone che hanno una loro idea, come te, e il fronte animalista, che sono dei criminali, perché mi volevano aggredire, questi signori del fronte animalista, dei criminali. Questi signori sono delle persone violente, come quelli che si dicono a me, in nome dell'animalismo si possono sentire in diritto, come prima al telefono, di inveire contro di te. È sbagliatissimo. Ci sono stati degli animalisti che a Londra hanno preso uno che aveva una pelliccia, lo hanno sbuttato giù dalla appunto scala. Ma la stessa cosa, questi fanno la stessa cosa. Aspetta, lasciami finire. Allora? L'hanno buttato giù dalla scala mobile, questo è rimasto immobilizzato in una sedia a rotella e quella pelliccia era falsa, era una pelliccia ecopelliccia di finta pelle, non era vera. Quindi questo succede purtroppo. Quegli animalisti che sono giù dovrebbero vergognarsi di dire che ma sono ce l'abbiamo animalisti. Qualcuno? Ci abbiamo qualcuno o no? Sono andati via questi deficienti, conigli, hanno paura della polizia che arriva. Andro, ci sei o no? Andro, non c'è, fatemi un collegamento con Andro, no, ragazzi, qualcuno qua sotto. Vabbè, non c'è più nessuno, dai. Sono andati via questi qua, perché alla fine, quando devono, capito, quando capiscono che la cosa si mette male, quando possono arrivare le forze dell'ordine, perché io non ho nessun problema a confrontarmi, anche sì, in maniera però, forte. Sì, però sei tu che alzi i toni, sei tu no, che ma ragazzi, questo. Ma perché uno? Ma perché io alzi i toni e questi come qua mai? Che dicono come che mai? Noi siamo io degli assassini, no? Scusa, anche tu dici che noi siamo degli assassini e alzo io i toni. Vedi, allora, quando io facevo Bibop a Lula su Radio DJ, c'era all'inizio della Lega, io dissi che i leghisti che dicevano che i negri, che c'erano tutte le robe, in realtà non erano neanche in grado di fare l'amore, perché una persona che fa l'amore, che ama, non può dire quelle cose. Mi sono trovato sotto Radio DJ i leghisti che volevano picchiarmi. Anche io cosa feci? Dissi vabbè, ok, vi faccio parlare. Diedi il microfono, c'era un tal Bossi che allora era completamente sconosciuto, perché era perché io stesso avevo provocato. No, ma ragazzi, quando però non scherziamo, provochi. Qui non c'è io la faccio delle provocazioni contro i nazi vegani, che è una cosa molto diversa. Io non so se tu sei incasellabile tra i nazi vegani, cosa che non credo. Ci sono delle persone, ci confrontiamo sul veganesimo, abbiamo idee contrarie, tu pensi di essere nel giusto, io penso di essere non né nel giusto né nel torto, penso di essere un po' più razionale di te, ma lasciamo perdere questa storia qua. Tu sei una persona che non aggredirebbe mai nessuno, non farebbe mai del male a una mosca. Questi signori che sono venuti qua sotto stasera non mi puoi dire che sono il frutto delle cose che dico io, perché sono dei pazzi fronte animalista. Li hai attirati tu. Ma non li ho attirati per c'è niente. Causa ed effetto, c'è causa. Ma non effetto. È vero, dai, su, perché ho portato un agnello qui, perché ho portato un coniglio in studio. Ma dai, Red. Ma perché tutti i giorni? Io ti posso dire che quando ho visto la foto di te col coniglio ho smesso di ascoltare la Zanzara. Ma io no, ma quello. E per fortuna gli ascolti sono aumentati, guarda, ti posso assicurare. Ma io non discuto. Questo tu hai successo, non è vero questa cosa però, qua che hai smesso davvero. Perché l'altro giorno ho sentito che dicevi delle cose, dai, non è vero che hai smesso, no ogni tanto sì, ma però tu sei sempre violento su ogni cosa. Cerchi ma non puoi dire che sono violento, la violenza è un'altra cosa. Porca puttana, ma quando fai parlare quello là che chi? A parte invento contro Parenzo, no, ma perché le fai parlare, ma che c'è, ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Quelle sono quello delle cose. Allora, nel mondo esistono pure questi qua, io li vorrei far parlare sempre. Cioè, quello che ha parlato tu prima alle 18. Tu facendo parlare questa gente, hai preso il posto di Radio Radicale in quel periodo in cui facciamo ascoltare. Vabbè, ma questo qua va bene, ma questo stiamo parlando di un format radiofonico. Però lasciamo perdere il format radiofonico, si può discutere fino all'infinito. Non è di questo che stiamo parlando. Qui stiamo parlando del fatto che tu mi dai del violento e mi hai detto io sostanzialmente detto, la colpa del fatto che sono venuti colpa, questi è anche no, tua. No, la colpa. Allora, questi sono dei violenti e si devono vergognare di dire che sono. Questo certo. Questi sono violenti, come ti dirò di più, era per me fastidiosa anche quelli che l'altra sera avevo la gabbia e applaudivano ogni cosa che dicevo, sembrava la curva sud. Una persona che ama gli animali deve abituarsi che ama gli animali, amare gli animali. Ma io li amo anche da morti, odiare. Li amo anche da morti, capito? Io li amo anche da morti, vivi e morti. Certo. Cazzo, vabbè, sono diversi da noi, Red. Sarai condannato, non sono diversi da noi, sarai condannato ad avere vite da animale e basta. Come vite da animale, scusa, vite da animale. Certo, ma vedi che io e te giochiamo e scherziamo su questa cosa qua. Cioè, vedi che io e te alla fine scherziamo e giochiamo. Il tema è serio, abbiamo idee diverse, ma giochiamo e scherziamo. Questi qui, ti assicuro, io sono andato sotto con le migliori intenzioni. Certo, avevo sentito prima che non erano persone, come dire, malleabili, non erano i Red Ronnie del fronte animalista. Erano un po' così, diciamo. Sono andato col salame in mano. Come sono andato anche col salame, è vero. Allora no, ma non l'hanno visto nemmeno il salame, non l'hanno manco visto. sono entrati. Sei andato col salame giù, è come se io andassi a un convegno, se questi di Forza Nuova si presentassero, ragazzi, davanti a una sinagoga. Ragazzi, non diciamo cazzate, questi qua sono venuti qua sotto e non avevano nessuna intenzione di parlare, volevano solo picchiare. Se tu ti presenti, chiaro, con un maiale davanti a una moschea, ma non puoi, cazzo. È come Benigni che si presentò fu invitato a fare il comico tantissimi anni fa a un convegno di femministe e andò lì e dice: bocchinate, come state? Queste qui l'hanno aggredito, ha dovuto scappare. Adesso la colpa sarà mia che sono sceso con un coso che non nemmeno hanno visto. Ragazzi, ma questi qua sono dei matti, io esprimo delle idee. Cioè sono dei matti sicuro, ma se tu vai con un maiale davanti a una moschea, quelli si arrabbiano e hanno anche ragione. Ma non so, ragazzi, l'avrebbero fatto, lo mi hanno visto e non gliene fregava niente che avessi un salame in mano, chiaro? Giuseppe, tu ci hai parlato al telefono, hai capito che erano violenti. Infatti io sono intervenuto, sono stato io a intervenire. Perché? Perché appena ho sentito la telefonata, io ho detto: porca puttana. E meno male che non sentivi più la zanzara, Ma no, Giuseppe, sai perché? Perché ti dico anche chi: Massimiliano Petrucci mi ha mandato oggi un file, dove ieri mi ha mandato il file della tua registrazione. Sì. Allora sentite, dico, guardate a vedere, visto che stamattina mi ha detto che è andato in onda un'altra mia cosa, vuoi vedere che adesso mette delle altre cose mie? Sì, certo, e difatti, l'ho messo. Ho acceso e ho sentito il coso, capito? Sì, ma quindi, capito, io non ti ho aggredito, amico mio, io ho detto semplicemente che secondo me hai detto una cazzata quando sostieni che i bambini rifiutano la carne. Aspetta, Red, ho la pubblicità. Aspetta, ferma un attimo. Cruciani non si tocca. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. È iniziata l'apocalisse. Speaker di una radio, ad esempio, che come il professore ha ostentato un coniglio morto, hai capito, fatto vedere, io oggi me lo mangio, i vegani, basta. Quindi in questo momento noi non siamo contro nessuno. Allora, ragazzi, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, adesso non voglio drammatizzare, per carità, però vi assicuro, e sapete, e tutto il popolo della Zanzara, tutto il popolo della radio sa che io in queste cose sono assolutamente onesto, come in tutto, tra l'altro, onesto intellettualmente, onesto nella vita, non so, che un gruppo di personaggi, un piccolo gruppo di personaggi, presunto fronte animalista, con una maglietta, cioè quasi paramilitari, diciamo, ma erano quattro disgraziati, naturalmente, tra cui due o tre donne, uno che sembrava un mezzo drogato, tutto emaciato, no, ti assicuro, sembrava un tossicodipendente, ma per carità, con tutto il rispetto ai tossici, dei drogati. Beh, di più cosa vuoi dirgli poi? No, ma perché ti sembrava tutto, capito, sai, di quelli qua tutti bianchi con gli anelli là, più una specie di capo, uno alto, magro, eccetera, ma ci sono tutti i video che poi distribuiremo. Un gruppo di questi personaggi ha tentato di aggredirmi, cioè si è lanciato verso di me entrando, perché noi abbiamo aperto, perché magari volevano parlare, abbiamo aperto il portone del Sole 24 Ore, invece di venire a parlare si sono avventati contro il sottoscritto. Avventati. C'è allora, il filmato, il video. Tutto, c'è tutto. La frase che abbiamo fatto sentire prima era di Radio Veronica in collegamento con noi, che ci ha chiamato un po' per dirmi che ho torto, un po' per darmi ragione, ma è il cerchio bottismo di Red Ronnie. Red, io potrei dire la stessa cosa, allora, il fatto che tu hai detto c'è uno speaker radiofonico che ostenta un coniglio può averli attirati, cioè può averli anche... come no, no, no, non l'ho detto io, sta tranquillo che non c'è bisogno che io dica che tu hai ostentato un coniglio morto, perché lo sappiano, non è... io tra l'altro non te l'ho neanche citato, ma è chiaro che eri te, mi riferivo a te e tu l'hai beccato subito al volo, ma è chiaro, è quello che ti ho detto prima, se tu provochi alla fine... ottieni, cioè no. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale. Ma contraria. Non è la stessa cosa aggredirmi, Red. Ho capito, ma mi ha detto Parenzo, io non lo sapevo che sei andato giù con un salame. Ma no? Sono andato giù, ma a parte che mi avrebbero aggredito comunque perché non hanno fatto riferimento al salame. Avrebbero aggredito. No, comunque. Io sono andato giù con un salame per dire, ragazzi, il salame sì, io me lo mangio, è buonissimo il salame. Ma ora che mi sono, ragazzi, ma il salame è legale, oh, mica ho portato giù la droga, ho portato giù un salame che si può comprare in macelleria. In quel contesto è come se uno fosse andato davanti a una moschea, ragazzi, con un maiale. Sai, io adesso vi mando veramente a fare in culo perché mi avete rotto le scatole. Il salame si può comprare dappertutto, ma se tu lo ostenti in quel contesto è chiaro che è... Adesso vedi, mi volevano aggredire, passo io per... No, loro sono i violenti, ma tu hai cercato lo scontro. Ma che ho cercato lo sconto? Aspettate un attimo, fermi. Allora, l'audio, i video fra poco di quello che è successo. Aspetta, no, ma gli audio sono abbastanza chiari. Vi ripeto, poi potete vedere tutto, Sentite. Ma si ripeta, c'è paura! Schifoso, avete una merda, avete! Una merda! Siete tutti poveri! Esatto, è vero, morte degli animali! Cazzoliti! Tanto lo becchiamo fuori! Adesso lo becchiamo fuori, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Su, era una un tappetto così, con i capelli neri, due bassette, una bionda. No, ma non c'è dubbio che siano violenti, nessuno lo nega. Io dico semplicemente che per non aizzarli ancora di più non sarei andato giù con un salame per provocarli. Ma di fatti, il salame lo puoi mangiare, ma di fatti. Difatti, Giuseppe, quando i leghisti mi aspettavano giù, mica sono andato giù ad affrontarli. No, ma ragazzi, però siamo sinceri, io sono andato se giù. Se Red Ronnie fosse sceso giù col tricolore italiano, li avrebbe eccitati. Guarda, ragazzi, questa trasmissione è talmente democratica che io mi faccio processare anche da voi. Pensate come siamo liberi noi qui. Siamo talmente liberi che mi faccio processare nonostante il fatto che ci sono quattro signori del fronte animalista che sono venuti con un fumogeno, con uno striscione, hanno tentato di aggredirmi entrando nella sede del Sole 24 Ore. Chiaro? Oggi mi sono mangiato del petto d'oca. L'ho anche no, non lo dire a Red che non lo dire a Red che vomita il petto d'oca. Il petto d'oca si è mangiato. Dopodiché, se uno mi contesta però e fa una manifestazione e se voglio parlare, non è che scendo giù dicendo vuoi anche questo. No, ma io non ho avuto nemmeno il tempo di... Cioè, ho fatto così, erano già dentro. Ma Giuseppe, tu dalla telefonata che hai fatto non hai capito che erano violenti? Ma non sei scemo, Ho capito, ma ragazzi, ma erano qua sotto. Dovevo andare, siccome mi hanno detto vediamoci, eccetera, affrontiamoci, abbi il coraggio di scendere. Sono sceso. Che cosa accadrebbe se un gruppo... Allora, ragazzi, diciamo la verità. Con un maiale, ma non è la stessa cosa, non dire stronzate. Uguale, non dire uguale, stronzate, non è la stessa uguale, cosa. Ragazzi, uguale, non è la stessa cosa. Non cosa, è la... cosa accadrebbe? Non dire stronzate. Io non riconosco il fronte animalista, sono nulla, capito? Sono il nulla, non mi interessa. Sono il nulla. Allora, ragazzi, però vi dico una cosa. Oggi ho visto una foto in un sito che è Sei Vegano Se, una foto in cui c'erano degli agnellini in fila. Adesso vediamo Parenzo che cosa dice. Degli agnellini in fila e nella stessa foto messi accanto c'erano degli ebrei nel campo di concentramento. Vabbè, è una stupidaggine. Non è che è una stupidaggine, è una cosa criminale. È una cosa criminale. Mettere insieme gli ebrei piccoli, tra l'altro, ma dei bambini ebrei nel campo di concentramento e insieme nella stessa foto, come dire, vittime quelle, vittime questi. È una puttanata. Ho capito, nella stessa foto. Allora è una puttanata, però attenzione. Però un cazzo. Se tu non consideri, io ti ripeto, quella frase che tu mi hai criticato, che Leonardo da Vinci ha detto che verrà il giorno in cui saranno gli esseri animali, saranno considerati come gli esseri umani, arriverà quel giorno. Cioè in che senso? Cioè, verrà un giorno in cui... Cioè non mi dire che uccidere gli agnelli è come uccidere gli ebrei nei campi di concentramento? Uccidere un animale, non gli ebrei, non gli agnelli, un animale, sarà la stessa strega di uccidere un essere umano. Cioè tu pensi che si sta facendo una strage di agnelli come si è fatta una strage di ebrei? Se tu consideri... No, ma dimmi sì o no, Red, sii onesto, sii onesto. Porca puttana, ti sto dicendo, se tu consideri gli animali, non gli agnelli, i cagnolini, i gattini che spopolano su internet, gli animali alla stregua di esseri umani, allora uccidere un animale è come uccidere un essere umano. Ma che, ho capito, ma tu te paragoni la strage degli agnelli alla strage fatta dei bambini ebrei? Aspetta un attimo, fermo. Pronto? Sì, bisogno? Sì, chi è? Ciao, hai messo una foto in cui hai paragonato gli agnelli agli ebrei? Chi sei, scusa? Hai messo una foto su internet in cui paragoni gli agnelli agli ebrei? Ho messo una foto su internet che paragoni gli ebrei agli agnelli. Sì. Ma chi sei tu? Sì, e ti chiami Bisogno? No, chi sei tu? Ti chiami Bisogno, sì o no? Ma chi sei tu? Ma che hai detto prima? Hai detto prima sì. Ma tu chi sei? Non ti preoccupare, mi chiamo Cruciani, non ti preoccupare. Che onore! Hai messo quella foto o no? Ma che errore! Hai messo quella foto o no? Ma fammi sapere, che vuoi sapere? Se ho messo quella foto o no? Hai messo tu quella foto, no? Sul sito? Ma guarda, non lo so, è comparsa da sola, non lo so. Sì, guarda, è comparsa da sola un cazzo. Dimmi la verità, l'hai messa tu o no quella foto? Paragonando gli agnelli ai bambini ebrei nei campi di concentramento. Mamma mia, ma chi sei? Sono Cruciani, non fare lo spiritoso, dai. Non fare lo spiritoso. L'hai messa tu quella foto o no? Ma che vuoi? Cioè, è comparsa da solo così, all'improvviso? Io compaio come mi pare, faccio quello che voglio, capito? Chiaro, rispondi a questa domanda. Anche tu in un sito pubblico hai messo quella foto lì. Adesso rispondimi. I bambini ebrei sono come gli agnelli, sì o no? Allora, la foto è comparsa da sola. Sì, è comparsa da sola, dai, foto. Forza, abbi il coraggio delle tue idee. Parenzo, diglielo tu che sei ebreo, diglielo. Perché sono ebreo, non è per quello. Io dico semplicemente, se lei l'ha postata, abbia il coraggio di difendere questa sciocchezza, esatto, che lei ha fatto. Abbi il coraggio delle tue azioni, dai. No, che sono stato io, scusa, ma che domande fai? Sei stato tu, benissimo. Allora, perché hai messo quella foto? Perché tu stai paragonando, mettendo sullo stesso piano i bambini ebrei trucidati nei campi di concentramento agli agnelli, sì o no? Esatto. Bravo, applausi, facciamo gli applausi. Scusi. A questo imbecille. Applausi. Qual è il ragionamento che ti ha portato a fare questa cosa? Dimmi. È finito lo show o deve continuare? Ma quale show? Non c'è, con questi paragoni che hai fatto, non c'è. Tu fai queste telefonate per avere visibilità? No, io. E chi l'ha messa la foto? Io, chi l'ha messa la foto? Claro, chi è che sta telefonando all'altro? Io o tu? No, ma chi l'ha messa la foto? Io faccio il conduttore di un programma, chiaro? Chiaro, se tu non mi vuoi parlare, abbassi il telefono. No, io ti voglio parlare, figurati, non è un problema. Io benissimo, allora dimmi qual è il senso di questa foto, dai, dimmelo. Certo, se mi fai parlare... E dai, parla, è tre ore che non parli, dai, vai. Tu non mi stai chiamando, mi stai calmo innanzitutto, perché se... Ma io non sto calmo, sono come sono, non ti preoccupare, tu vai. Se stai calmo e hai voglia di ascoltare, io ti parlo. Ti sto ascoltando, vai. Ok, allora... Tu sai che un essere vivente, sì, è fatto di un cuore, di occhi e di orecchie e di una bocca, giusto? Sì, allora? Ok, se tu consideri che un essere vivente è fatto di queste cose, mi sai dire tu la differenza tra un agnello e un bambino? Vabbè, allora tu stai dicendo che c'è una strage di agnelli come c'è stata una strage di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, chiaro? Tu sai che cos'è? La schiavitù, sai che cos'è? La schiavitù, lo so. Rendere un essere vivente schiavo di un sistema, sai che cosa... Dunque, gli agnelli per questo, siccome sono schiavi, secondo te, siccome sono schiavi, come gli ebrei, giusto? Come gli ebrei durante il nazismo. Ma non secondo me. Ma come no, allora, secondo te? Ma come... Io però, fra... Parenzo, ti prego, sei ebreo, reagisci davanti a queste cose! Per quella cosa più volgare è quella di prendere un episodio come la Shoah e banalizzarlo con la questione degli agnelli. Cioè, io, ogni paragone è stupido, ogni paragone è idiota, perché si svilisce il fatto in sé. L'unicità di quella roba. Se lei ma non lo capisce, non lo capisce, no, capito? Non lo capisce. Se c'è un massacro in atto nei confronti degli agnelli, parli del massacro degli agnelli, ma non faccia paragoni del cavolo con altri eventi della storia, come dire Srebrenica, come dire, perché non c'è indegno questo, paragonare cose diverse, mettere sullo stesso piano cose che non sono infinitamente comparabili. Questa è la grandissima stronzata. L'hai capito o no? Bisogno, l'hai capito o no? Tu hai bisogno. Si chiama Parenzo, amico mio, si chiama Parenzo. Ok, posso rispondere a Parenzo? Sì, puoi rispondere. Ma non c'è molto da dire in più. Parenzo, guarda che noi non banalizziamo nulla. Per noi la Shoah è stata una cosa. Scusa, bisogno, hai una regolare tu? Che c'hai? No, io sto col viva voce, perché? No, se togli il viva voce è meglio, sentiamo di più, così almeno si capisce le stronzate che dici, capito? No, vabbè, allora lascia stare, guarda, se la telefonata è solamente per farti avere un ma non so, ma stai spiegando, bisogno, stavi spiegando. Per avere un confronto vero, vieni a fare di persona, non ti nascondi dietro a un microfono. Ma che c'entra? Stiamo parlando. Se togli il viva voce capiamo meglio, va bene così, scusami. Va bene, d'accordo, togli il viva voce, per favore, te lo chiedo per favore, la togli? Senti meglio ora? Sì, sento meglio, vai, aspetta, okay, che abbiamo allora, 30 secondi, che abbiamo? Che abbiamo? La pubblicità o no? No, non ce l'abbiamo, vai, allora Gianluca dimmi. Allora, se eviti di dire che io dico stronzate ne parliamo, se no lascia stare. Vabbè, vai, forza. Allora, ti dicevo, volevo rispondere al tuo amico, che noi la sua la consideriamo una cosa gravissima. Che purtroppo, no, ma guarda, tu la stai paragonando all'uccisione degli agnelli. Scusa, mi fai rispondere? Vai, dimmi allora. Ok, e allora ti sto dicendo che siete voi che purtroppo non considerate il massacro che avviene tutti i giorni di animali come una cosa grave. Una cosa grave. Vabbè, ma questo qua società. d'accordo, ma il paragone, perché secondo te è paragonabile? Il paragone, stiamo paragonando esseri viventi. Ah, dunque, secondo te si può paragonare la Shoah all'uccisione degli agnelli? Viventi. Stiamo facendo, si può paragonare, sì o no? Sì o no? La schiavitù non ha una specie, la schiavitù è di un essere vivente. Ti posso dire che tu hai veramente ti chiami bisogno di tu hai veramente bisogno di un medico? Hai veramente no, ma te lo posso assicurare, ma te lo dico con affetto. Io sto benissimo. Red, sei in collegamento ancora con noi. Vuoi dire qualcosa a questo tuo simile, per favore, perché è un po' simile a te, signor Bisogno? Allora, lui ti ha detto alcune cose che tu devi cominciare ad ascoltare. Ti ha detto che tu non sai ascoltare. Ma ragazzi, perché ma io sono la persona che ascolta più di tutti, vero, ma che dite, dai. No, allora, Giuseppe, parti da un presupposto. Se una persona considera un animale come un essere umano, e per farti questo ti faccio un esempio. Ma ho capito, ma non puoi... Cioè, ma non... Aspetta Giuseppe, aspetta, non intervenire ogni due secondi, vuoi finire? Vai, forza, vai. C'era un periodo in cui i negri, io faccio sempre questo esempio, erano considerati degli animali, tant'è vero che quando i nostri andavano a conquistare l'Abissinia, no? Mandavano le foto delle donne nere nude, perché tanto non erano semi, erano mammelle. Stai paragonando lo schiavismo, il periodo dello schiavismo, a quello che stanno vivendo adesso? No, non sto facendo questo. Ma come no? Ti sto dicendo che c'è stato un periodo, non lo schiavismo, perché mica erano schiave allora quando andavano giù in Abissinia, ti sto dicendo che c'era un periodo in cui i negri, con la G, erano considerati una razza inferiore, erano considerati anche animali negli Stati Uniti d'America, erano animali. Aspetta che ci sono i signori della Digos, che c'è, mi devono dire qualcosa, no, dopo, fuori dall'onda, eccetera, ci sono i poliziotti qua. Ho capito, Red, no. Allora vuoi concludere? Allora, concludendo, oggi si considerano gli animali animali. Verrà un giorno in cui gli animali saranno considerati esseri umani. Sì, così, umani, così, ragazzi, ma adesso va bene tutto, ma tu non puoi paragonare gli animali agli esseri umani e soprattutto fare paragoni con tra Shoah e la situazione che sta vivendo adesso, che stanno vivendo adesso gli animali. Bisogno, allora, bisogno, bisogno. Oh, non c'è più, sei andato, che ha fatto? No, poi ricordati che la Shoah non è un fatto unico, di Shoah ce ne sono state tantissime. E tu pensi che ci sia una Shoah, Shoah degli animali? In questo momento c'è anche una Shoah degli animali. No, ma ragazzi, non è da basta. Parenzo, rispondite, ti prego, rispondite. Ma no, ma che cosa vuoi dirgli? Ma che non c'è... Io dico che in questo modo sminuite il valore delle battaglie, riconoscere l'unicità delle cose vuol dire dare valore ai drammi della storia, non prendere quello e dire ecco adesso è in atto la Shoah degli anni, è una cazzata, una cazzata. Ragazzi, vi devo lasciare, vi devo lasciare. Red, l'ultima cosa. Dimmi, bisogno di un medico, dimmi. Vi solamente volevo fare una domanda, voi siete mai entrati in un mattatoio o in una è la solita cosa, sono entrato, siccome io mangio la carne sono consapevole di fare soffrire e l'hai ucciso tu. No, ma che c'è? Ma io faccio un altro mestiere, amico mio, perché non lo ammazzi tu? No, guarda che è importantissima sì, questa cosa. Bisogno, hai mangiato carne, quando sei diventato vegano? Quando ma sei tu l'hai mai ucciso una no, no, non è mio, non è il mio mestiere. Quando sei diventato vegano? No, non si tratta di mestiere. Quando sei diventato vegano? Rispondi, quando sei diventato vegano? Allora, se io ti faccio una domanda... Non l'ho ucciso, le faccio io le domande. Bisogno... Ah, le fai tu? Sì, beh sì, conduco io per fortuna. Scusami. No, va bene. Bisogno, ti voglio fare una domanda. Quando è che sei diventato vegano? Io sono diventato vegano 2 anni fa. Benissimo, prima di 2 anni fa hai ammazzato un sacco di gente. Sì, tantissimo. Sei un assassino, capito? No, siamo, hai ammazzato un sacco di gente, vergognati. Società, pentiti, vergognati. E se vuoi assassini. Sì, se vuoi combattere in favore degli agnelli, perché non fai come quegli indù in India che si sono suicidati? Vai a farti macellare. Devi avere le palle di farti macellare. Fatti macellare. Ma puoi fare un confronto, come si dice? Scusami, io ti volevo solo fare una domanda. Se sei mai entrato in un mattatoio, non è veramente sono entrato e non ho chiaramente quando uno entra in un mattatoio prova un'emozione, quello che vuoi. Su questo allevamento intensivo? Sì, anche sono entrato, ho fatto tutto, e guarda. Come li chiami quelli se non li chiami scarpe? No, amico mio, infatti il punto è che io non sono ipocrita, capito? Sono entrato dentro un allevamento intensivo e ho visto un mattatoio più volte e ti dico una cosa, siccome io continuo a mangiare, anche se non tutti i giorni, la carne, non sono ipocrita e ti dico una cosa molto semplice. Sono consapevole quando mangio la carne di uccidere e di aver fatto soffrire qualcuno. Chiaro? Sono consapevole. Non sono ipocrita, sono consapevole. No, non ma perché c'è una cazzo di differenza tra noi gli animali? C'è una cazzo di differenza. Ma se sei un violento? Ma qual è violento? Violenti sono quei 10 criminali che sono venuti qua sotto e che mi volevano aggredire, capito? Che sono arrivati fin qui sotto la radio vogliono aspettare fuori. Sono i tuoi amici, condannali. No, caro Cruciani, vedi che ti sbagli di grosso. Vabbè, ciao, bisogno, ti devo salutare, ciao Red. Grande Red. Ciao Red, grazie. Red, un abbraccio, ciao. Allora ragazzi, Gianluca da Roma, vai Gianluca. Tutti, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi Gianluca, dimmi. Niente, io dico una cosa, ovviamente butterò benzina sul fuoco perché io ieri sera quando sentivo la radio, io c'ho una piccola casa in campagna e ovviamente mi allevo gli animali. Sì. E ieri ho ammazzato 10 tacchini e ieri sera me lo so cotto subito uno e l'ho mangiato. Hai fatto bene. Quello che non sanno i vegani, una cosa semplice, che uno cresce l'animale, alla fine o muore quello che lo cresce o muore l'animale, perché dopo un po' sotto l'acqua, dai da mangiare sotto l'acqua, tutti i giorni, febbre, alla fine arrivi che... Ma stanno molto meglio, cioè li teniamo molto meglio noi per poi ucciderli, certo, di come vivrebbero da soli allo stato brado, diciamo, sarebbero mangiati da altri animali, peraltro, no? Faccio conigli, tacchini, polli, io giovedì prossimo ammazzo 20 polli, per dire, perciò... Attento, non lo dire però, che mio amico mio, Gianluca, sì, lo puoi anche dire, ammazzi 20 polli, quelli vengono sotto casa tua, hai visto? Ma io non esco col salame però, quella è la differenza. Ma ragazzi, non diciamo cazzate, non diciamo stronzate. Ci sentiamo tra qualche istante, ciao. Patria e zanzara. La zanzara. È iniziata l'apocalisse. Allora, voci che abbiamo raccolto, caro Parenzo, poi in realtà ci sarebbero tanti altri argomenti, È evidente che poi quando c'è una tentata aggressione qui alla sede del Sole 24 Ore nei confronti del sottoscritto, per legittime opinioni sul mondo vegano and dintorni e animali, poi si parla di questo. Alcune voci che abbiamo raccolto in quel casino che c'era qui fuori tra fumogeni pazzi scatenati, ve le proponiamo, vai! Ciao! No, noi abbiamo rispetto di tutti i gatti, ma di lui no. Dentro, codardo. Lui no. Veramente, codardo. È un codardo di merda. Ti preoccupare che veniamo ancora. Sta lì dietro il vetro. Certo. Vieni, coglione, vieni. Giuseppe, però. Ma cacca, non ho capito un cazzo. Ti sei cagato addosso. Sei cagato addosso. Vabbè, corri, non corri più ora? Non corri, corri più? Pezzo di com'è merda. Che non ti vediamo più correre? Pulire. Sì, sì. Vatti a pulire la merda. La merda va a pulire. Cambia di pantaloni. Cagone, cagone, ma che schifo. Non c'è nessuna tolleranza contro questa gente. Io non li mangi i bambini. No, ok? Animali, no. Io non li mangi i bambini. Chiaro, tu mangi gli animali, però. No. Eccolo qua. Esatto. Quando uno provoca esatto. Così vuol dire che guardalo, guardalo, guardalo. Si aspetta la reazione violenta. Testa di cazzo, Cruciani, tu non sai quanto vorrei averti qua. Ma guarda te che scemo, ma sta dietro ai vetri, non viene fuori, c'ha paura. Giù le mani dagli animali, fosse un intelligente, ma questo la deve piantare, perché sennò veramente siamo da soli. No, veramente non hai capito. Il contrario di quello che ci sono. Ah, c'è le mani da Cruciani. Ah, tu sei con Cruciani. Bella roba, cazzo. Bella roba. Se tu ammazzi un altro essere, ma è legale. Te... Io vado a ricordare. Ma cos'è anche fascismo era legale? Anche scoprirsi allora, le 12 ma c'è un unico modo in democrazia. Fai un referendum, becchi il 51% dei voti. Se no il fascismo è una minoranza che vuole dominare. Ma non è che sia legale. Ma se la maggioranza del tuo paese vuole mangiare maiale, ma potrà farlo. Ma allora la maggioranza non vuole la vivisezione. La maggioranza si chiama democrazia. La maggioranza non vuole la caccia. Perché si può dire? Ma cosa? Ma i referendum si sono fatti per la caccia. Ma è cosa ti fa? Parenzo, non so se ti sei accorto della presenza del signor Barisoni, della grande mediazione. Barisoni è il nostro Kofi Annan, anzi è Stefan De Mistura, per dirla meglio. È il Stefan, no, perché era lì che mediava con sì, bisogna eleganze. Fare il referendum, vieni fuori che ti prendiamo. Quindi Barisoni bisogna fare il referendum sulla carta. Barisoni da oggi è il Stefan De Mistura. No, però io voglio sottolineare una cosa, adesso per carità, io poi spesso... Ma Roberto, dove era Roberto? Napoletano. Fate presto. Dove era il direttore? Fate presto. Vegani. Che è successo con i vegani? Riprende il giornale, fate presto. Che è successo con i vegani? Ma che avrà detto che avrà detto... No, aspetta, no, la cosa da ci dire... Ci sarà un editoriale di Alberto Quadrio Curzio sulla tua aggressione? Scusita. Aspetta, no, però dobbiamo essere seri. Allora, la questione è molto semplice. È che qui in questa radio... Passami la polizia. La polizia non può parlare, sì, dai. No, ma sei impazzito. Ti spiego perché hanno ragione i vegani. Ma dai, su, ma smettete. Testimonio... Perché, ecco, fino a quando non si è riuscito col salame avevi ragione. Col salame in mano. Davide, vai a fare in culo. Adesso ti mando veramente a fare in culo. Col salame ti in mando mano, veramente a fare in culo. Pazzi, li hai eccitati. Ma come non il dire toro, ma non dire stronzate. Ti mando veramente a fare in culo. Ho ragione, non al 100, al 200%. Nei confronti di questi quattro pazzi. Aspetta, ma ti voglio dire una cosa: che in questa radio, noi ospitiamo un programma in cui le posizioni dei signori Celentano e Vaira sono più o meno. Ovviamente non aggredirebbero nessuno, per carità. Però le posizioni della signora Celentano e del signor Vaira, su cui non ho nulla da dire, sono simili a quelle del fronte. Uguali. Stessa cosa di questo fronte animalista. Sono come le BR e il Partito Comunista. Tu hai chiara la differenza, sì. Le brigate rosse e il partito comunista. Attenzione, il partito comunista. No, scusa, ho sbagliato. Le brigate rosse e quelli, gli intellettuali, quelli che dicono né con lo Stato né con la. Il PC, anzi, ha subito la violenza. Chi è che diceva né con lo Stato? Né con lo Stato né con le BR. Ho capito, e sono uguali. Signor Byron, né con lo Stato né con le BR. E questi qua sono le brigate rosse, uguali, identico. Dai. Take Allora, Angelo da Novara, vai Angelo. Pronto, prima di tutto noi di Vegano Stammi Lontano siamo pronti a darvi nomi e cognomi di tutta quella gente di Fronte Animalista, se vi interessa. Cioè, non ho capito, perché tu sei di Vegano Stammi Lontano? Uno di Vegano Stammi Lontano, uno dei tanti. Sì, guardo Fronte, sì, Animalista. Sì. Fronte Animalista, sì, bene, diamo nomi e cognomi tutti, certo. Se serve, sì, sì, vettorato di legge, quant'altro, tutti i nomi e cognomi, se serve passa da noi che ti diamo tutti i nominativi. Sì, ok, sì, sì. Perfetto. Allora, per il resto ho chiamato per tutt'altro motivo, però ormai non so quanto possa essere interessante per gli ascolti. Mm. Cioè, in pratica, vorrei tornare al discorso iniziale, quello di D'Alema, no? Che dice appunto che ci vorrebbe l'8 per mille anche per i musulmani, per le moschee. Allora, io sono per la totale laicizzazione dello Stato, perché la religione è un fatto privato, lo diceva appunto, anche Gesù. Appunto, lo diceva allora... anche Gesù. Che è vera preghiera. Adesso lasciamo perdere Gesù, Angelo. Vabbè, ci prega sto zombie, giustamente, in questi giorni, cioè, è giusto anche parlarne. No, però, in ogni caso, cioè, però le leggi valgono per tutti, questi pagano le tasse come noi, e allora è giusto che anche loro abbiano il loro culto, i loro diritti, perché se sono cittadini ragazzi, come ma noi... nessuno dice che non debbano avere diritti le persone. Quello che vuole fare D'Alema, cioè dire dirottare una parte dei soldi che noi non scegliamo di dare alle che vanno attualmente alla Chiesa Cattolica, no, alle comunità islamiche, no, così no, è così una no, però se uno follia scegliere... è una se uno follia può, no, se uno può scegliere di dare l'8 per mille a Chiesa Cattolica, Chiesa Valdese, Buddista e quant'altro, perché non si può aggiungere una scelta anche per... Scusa, mi segnalano che sei un satanista tu. Sì. Che vuol dire sei un satanista? Che vuol dire? A parte che ci sono tante correnti diverse, che ognuno ha opinioni diverse. La ma mia che vuol dire essere satanisti? Spiegami. Vuol dire, prima di tutto, essere contrario agli insegnamenti cristiani. Vabbè, ma ho capito, ma satanista che vuol dire? Scusa, sei un altro matto come loro? Cioè, sei un altro matto come i vegani? Cioè, non lo so, un satanista, che vuol dire? Adori Satana? Io no, esiste chi lo fa e... Ma scusa, allora che satanista ma sei? È un sì, ma un po' come Buddha. Cioè anche Buddha non si sa se è esistito o no effettivamente, però... Ma che vuol dire essere satanisti? Perché? Perché sei satanista, Angelo? Perché sono satanista, perché mi sono ritrovato in certi scritti, in certi ideali. Ma ti sei trovato in mezzo a un gruppo dei matti, dei satanisti? No, ma anche nessun gruppo, ma ci mancherebbe altro. Anzi, cioè... Spero che non passi l'idea di sacrifici e cazzate varie, perché per carità. Vabbè, Angelo, ciao. Vito da Lecce, vai. Vito. Boh. Allora, buonasera. Boh. Io mi vergogno di essere vegetariano. Perché? Questa è la prima volta. Ascoltare questi deficienti che vengono sotto la radio per picchiare i cruciani sono solo dei deficienti. Io da 20 anni che sono vegetariano. Sì, ma senza se, senza ma, non come dice Parenzo, sei portato ecco, il salame bravo, sotto, ecco. No, ma vaffanculo. La ricchina che c'è al mercato il salame, la picchiano. Ma guarda che assurdo, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Io ho portato il salame, ma questi qua non se ne sono nemmeno accorti. Parenzo, ti assicuro, cosa, non c'eri, dai, su. Dico un'altra cosa, sono diventato vegetariano guardando Roxy Bar. E mi vergogno anche adesso di... Non mi attaccate perché... Red Ronnie, perché Red Ronnie ha il coraggio, delle sue idee. Ha detto una cazzata quando ha detto la Shoah degli animali. La Shoah degli animali è una puttana. Non si può dire però, paragonare gli animali agli esseri umani, non si può paragonare. È impossibile paragonare gli esseri umani agli animali, sono cose totalmente distinte. Se loro vogliono che le galline scorrino libere, è impossibile, perché verranno mangiate tutte le galline dai cani, dai lupi, è impossibile, le pecore si estingueranno, perché non sono animali predatori, sono cazzate assurde. E lo dice un vegetariano, eh? Sì, lo dice 20 anni, io sono vegetariano da quando ho 18 anni. Ho fatto carità, ma io anche se tu mi dicessi sono vegano, a me non me ne frega niente, fai bene, ognuno sceglie quello che vuole nella vita. Importante è non dividere, perché se tu dividi il mondo in due, i buoni e i cattivi, poi alla fine va a finire come stasera, che ci sono quelli là che si definiscono buoni, si autodefiniscono buoni, i quali vengono a picchiare uno che con loro considerano cattivo. Questo il è il punto. Il mondo purtroppo è grigio, non è bianco o nero. Gli estremisti non vanno mai. Vabbè, bene. Vito, ciao. Ciao, grazie, fermi ciao. Tutti, fermi tutti, fermi da. È iniziata l'apocalisse. La zanzara. Allora, mail del fornitore che augura buona Pasqua con agnellino in un boschetto. Risposta mia, me lo mangio impanato. Season Allora, caro Parenzo, ovviamente ci sono tanti ascoltatori che vogliono intervenire dopo quello che è successo oggi. 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Adesso, in realtà, siccome non voglio più dire questi numeri, invito, oppure lo faccio registrare a qualcuno il messaggio, va. Qualche ascoltatore ci può mandare, donna in particolare, potrebbe mandarci una prova via WhatsApp di come direbbe lei il numero, invitando cioè gli ascoltatori a dire 393 71 71 701. Dunque, ascoltatrici femmine, donne, esercitatevi su WhatsApp. Basterebbe farlo fare alla Nappi. Fra poco, non ti preoccupare. Sempre se riusciamo a collegarci con Los Angeles. E invece, qualche... Ma potevi farglielo fare ai vegani, giudici? Scusate, potete intanto leggere... No, però mi è venuto in mente una cosa. C'è un signore islamico, adesso parliamo un po' di Islam, e di quello che è successo a Bruxelles, che è un signore, un ex estremista di sinistra, non mi ricordo, che si chiama Massimo Abdul Aka. Mi hanno portato del salame. Mangiamolo un po', va? Salamino sotto, ottimo. Ottimo salamino. Prenzo, tu lo mangi il salame? Il salame mangio solo quello kasher. Ah, già, è vero, il salame kasher. Però quello kasher di manzo lo mangio. Ottimo, salame lasciato l'altro giorno dal tizio là. Sentite il salame? Da chi? Ottimo. No, da quel puzzone lì, da quello che puzzava. Quello che ha portato l'agnello. Marco Mapelli, sì. Comincio a dimenticarmi le cose io. Mi hanno portato due pezzi di salame che di solito io non mangio, tra l'altro. Però mi hanno detto che era particolarmente buono questo salame, che è lo stesso che ho portato giù dai signori animalisti per fargli semplicemente... Anzi, sai che in realtà volevo fare un regalo? Cioè, glielo volevo dare. Ecco, ma vedi che io su questo, vedi, ti dico che è come se questi avevano non torto di più. No, ma lascia perdere. Adesso... E non è che hanno meno torto adesso, ma io non gli avrei portato il drappo rosso davanti al ma coro. Ma glielo volevo dare. Il regalo. Te l'avrebbero tirato in testa, ovviamente. È ottimo. Allora, stavo parlando di Massimo Abdul Haq Zucchi, un ex estremista di sinistra convertito all'Islam, ex segretario di Adam Smith, quello che voleva togliere i crocefissi, ti ricordi? Segretario. Buonissimo questo salame, è ottimo. Allora, l'abbiamo chiamato qualche istante fa, cioè prima della trasmissione, sì, per capire se manda a fare in culo questi islamici. Però la conversazione si è avviata poi su un altro piano, senti. Pronto? Zucchi? Sì. Ciao, sono Cruciani, come stai? Cruciani, buonasera. Ti disturbiamo? Insomma, sto lavorando, dai. No, ma ti devo fare solo una domanda. Ci è venuta in mente questa cosa qua. Ma tu come li consideri i terroristi, cioè questi qua di Bruxelles? Terroristi? Sì. Ci sarebbero belle condanne se ci fosse un sistema islamico. Cioè, nei confronti di questi che cosa faresti? Ma io non lo so, non è questione di cosa farei io. La legge islamica prevederebbe la condanna a morte, è chiaro, no? Se ammazzano le persone innocenti. Cioè, per cui condanna a morte. Allora, si può dire, che ne so, vaffanculo all'ISIS? Ma non è questione di mandare, è questione che sono nemici dell'Islam, l'abbiamo detto più volte, e quindi vanno perseguiti, combattuti in qualsiasi maniera. Non... D'accordo, ma ISIS, allora, l'ISIS, che ne so, si può dire maledetti terroristi, maledetta ISIS, si può dire, cioè si possono usare queste espressioni come si possono usare tutte maledetti tutti i nemici dell'Islam e l'ISIS sta in prima fila. Ho capito, ma questi ammazzano il nome dell'Islam però. Va bene, ma non va bene per niente, chi c'è dietro chi lo sa. Cioè chi c'è dietro? Che ne so, c'è anche Israele dietro secondo te? Follia, Israele aiuta l'ISIS, questo è ovvio. Cioè, dunque, dietro l'ISIS c'è anche Israele. C'è anche Israele, c'è una coalizione di stati per cui l'Arabia Saudita. Guarda, Israele cura nei suoi ospedali. Ai confini. Chi cura? Chi cura? Non ho capito. Cura i feriti dell'ISIS. Ma non ho capito. Tu stai dicendo che Israele, non so chi, aiuta l'ISIS. Esatto. Ma dai, su... Non lo dico mica io, non è che sto dicendo niente di nuovo. Su internet si trovano queste notizie. Ma scusa, secondo te dietro i terroristi, questi qua di Bruxelles, c'è anche Israele? Certo. Ma con che obiettivo? Con che obiettivo? Gli obiettivi sono quelli di... C'è una guerra, diciamo così, ricomposizione dell'assetto mondiale. Parenzo, vai tu, Parenzo. È una terza guerra mondiale. Qui c'è da chiamare, non la Croce Rossa Internazionale, ma un'infermiera, un reparto intero. Guarda, chi vuoi chiamare tu, a me non mi interessa. Chi vuole chiamare il signor Parenzo? Perché il fanatico, il fanatico Zucchi, ecco, amico dei terroristi. Hai dato la tua etichetta per i tuoi amichetti. Sì. No, amichetti un cazzo, il fanatico Zucchi, ex amico delle Brigate Rosse. Oggi che ha riscoperto, oggi ha scoperto l'Islam e siamo tutti felici per lui che ha scoperto la vera religione, ma che ci venga adesso a insegnare a noi. Zucchi, che dici? Zucchi, che dici? Che dici? Non dico niente, sono cose che si sanno, solo che i grandi media non le propagano, tutto qui, perché fanno una propaganda che serve in questo momento di guerra. Parenzo? Parenzo sta chiamando il reparto psichiatrico, non mi faccio dare lezioni da un ex brigatista rosso, oggi convertito all'Islam, che mi dice che dietro IS c'è Israele. Farò una bella querela. Ma che querela fai? Perché non sei stato vicino alle Brigate Rosse? Non sono stato un bel niente, faremo una bella querela. È quello che si trova su internet, esattamente come dici tu. Questo è quello che si trova su internet, Io l'ho verificato. Non cosa hai verificato col governo israeliano? Su internet si trovano le notizie che Questo è quello che si trova su internet. Vabbè ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ma è la tesi più o meno di Giulietto Chiesa, intanto ho finito il salame, è la tesi di Giulietto Chiesa, cioè non è... Ma i fatti, voglio dire, non è... I folli sono, esistono dappertutto, appunto. È una letteratura che esiste molto in internet. Sì, ma è in internet, appunto. Ma chi è che produce le cose in internet? Chi li controlla? Cioè, I matti. Marta da Modena, Marta. Ciao Giuseppe. Dimmi. Mi senti, sì. Mi dispiace che è finito il salame, se fossimo più vicini ti porterei che ho fatto un bel umido con delle costine di maiale che sto mangiando con delle tigelle e ti dico che sono buone. Sì. Ottime, beh, chiaro, ma poi non è mica obbligatorio, però, ragazzi. Qui non abbiamo. Cioè, non è che facciamo l'elogio della carne ad ogni costo. Non è questione di elogio, è questione che loro lì hanno veramente rotto le palle. Non se ne può più. Io devo vado al parco con mia nipote, non posso farla giocare perché è pieno di piscio di cani. Scusami, non capisco bene. Siccome c'è Marta da Modena, io ho detto Marta, ma tu sei una donna? Io sono una donna, sì. No, ma siccome c'è una voce un po' strana... Sono un po' raffreddata, sì, non sto bene per quello. Parenzo, che voce ha secondo te, da donna? No. Sembra una voce da uomo, per carità, poi sicuramente sei dotata di tutte le qualità della donna, Sono una signora anche sessantenne, quindi già... Sì, adesso non saprei di lì per lì. Beh, in questo momento io ho detto Marta, poi c'è dovuto, ci ho fatto caso, ma che cazzo di voce c'ha questa qua? Vabbè, comunque. Sì, ho la voce da maschio, è vero. Vabbè, è vero. Per carità, ma è anche un po' chic. Però sono femmina. Sei femmina, ma non sei trans, no? No, ho una figlia con nipoti, ti ho appena finito di dire che voglio andare a giocare al parco con mia nipote. Vabbè, quello che c'entra, i nipoti. Piscio di cani. I nipoti ce li potresti avere a prescindere. Beh, al di là di questo, comunque, ti hanno rotto i coglioni gli animalisti, questi qua, i vegani? Che sì, hanno fatto? Non se ne può più. Io non sono mai d'accordo con te, a dire la verità, ben poche volte, ma in questo ti sostengo tanto. Grazie Marta, ti abbraccio. Ciao. Ti abbraccio, ciao. Io direi di provare un collegamento, Parenzo, con il professor Lutwak. Con il professor Lutwak. Professore moderato sempre. Sì, anche perché di parlare di animali, nonostante questa giornata incredibile, mi sono anche un po' rotti i coglioni. Per cui il professor Lutwak, e dopo le 20:30, ragazzi, rimanete qui perché tenteremo un collegamento con Los Angeles con Valentina Nappi. Grande puntata pre-pasquale. Valentina Nappi ritorna alla Zanzara, amici miei, tra una gang bang e l'altra. Hello. Professore? Sì. Sono Cruciani, come va? Molto bene. Ma secondo lei veramente c'è l'ISIS? Tutti parlano, naturalmente ci sono rivendicazioni, dobbiamo credere a queste cose? Non esiste l'ISIS, questo è l'Islam, questo è lo Stato Islamico, questo è l'Islam. Dunque la colpa l'Islam, è anche dell'Islam. L'Islam è una religione di mobilizzazione. Sì. Non necessariamente, non è che tutti i musulmani sono estremisti, ma la religione li invita così. Mm. Quelli che propongono moschee devono capire che generano adesione alla religione, e questa è una religione che richiede un attivismo. Lei sta dicendo, scusi, professore, sta dicendo che l'Islam è di per sé una religione violenta? No, dico che le autorità municipali di Molenbeek hanno deciso nel corso degli anni di fare di Molenbeek una zona largamente islamica. E dunque quando c'è una zona islamiche. Quando c'è una zona largamente islamica, cosa vuol dire? Che è un pericolo? No, questo vuol dire che ci sono predicatori, e che questi predicatori non predicano il buddismo, non predicano il sinto, no, predicano l'Islam. E nell'Islam c'è l'obbligo di salvare l'umanità portando l'Islam dovunque, la vittoria dell'Islam. E dunque noi dobbiamo limitare il numero di islamici in Europa? No, se volete essere stimolati da un conflitto di religione, potete aumentare il numero. Io non sono europeo. No, appunto dico, secondo lei bisogna limitare questo numero di islamici in Europa? Siete voi che dovete decidere. Fino adesso avete deciso che volete aumentare il numero. Io non sono mica europeo. Che diritto? Vabbè, ma lei è d'accordo o no su questa cosa? Vede, un pericolo. No, non ho diritto di commentare, non è casa mia. Se voi siete voi che li invitate con grande entusiasmo, e questa è la vostra scelta. E dunque è una scelta mortale, secondo lei? Ma senti, è una questione di tempo, evidentemente. Un tempo per che cosa? Per uno Stato islamico? Esatto, e naturalmente con questo vengono altre cose. Cioè, lei ci sta dicendo che noi ci stiamo praticamente suicidando, questo è il punto. Forse voi volete convertirvi all'Islam? Noi non ci vogliamo. Io non mi voglio convertire all'Islam. Quando vedo che il Papa li invita e apre le braccia, quando sento che il Papa, i presidenti, i primo ministri, preti dicono che è una religione di pace, che è una religione di pace, ma chi può essere contro la pace? Professore, lei sta dicendo che praticamente dal Papa in giù ci stiamo suicidando, stiamo abbracciando qualcosa di mortale. Questo è il Io punto. Non uso questo termine. Io non, voi avete deciso che volete islamizzare l'Europa. E sicuramente questo è perché l'Islam è una religione di pace. Perché non è una religione di pace. Dalle Filippine alla Nigeria, questo sicuramente è una coincidenza. Ah, ecco una coincidenza. Senta, professore, lo Stato Islamico è un po' come il nazismo? Perché dice questo? No, è un paragone stato islamico. È uno stato che aderisce alle regole dell'Islam. Ah, ok. Dunque, se uno segue fedelmente le regole dell'Islam, praticamente è un assassino. No, non sono una banda di criminali. Sono gente che seguono accuratamente le leggi, le norme dell'Islam. E allora, per esempio, è l'imitazione di Muhammad. E dunque, l'Arabia Saudita... L'Arabia Saudita è in Iran. In Iran, il famoso Iran di Rouhani, eccetera. L'età legale di sposarli, tu puoi sposare, è di 7 anni. Un uomo può sposare una bambina di 7 anni e può avere rapporti sessuali a 9 anni. Perché l'uomo perfetto, Muhammad, ha sposato a 7 anni e ha avuto rapporti sessuali a 9 anni. La legge saudita permette a un uomo di sposare una bambina di 7 anni e a stuprarla, avere rapporti sessuali come il profeta Muhammad all'età di 9 anni. Ho capito. Allora, un signore come Gino Strada dice che orrore, basta violenza, basta terrorismo, basta guerre, basta sangue. Cioè mette tutto insieme in pratica, no? La violenza, il terrorismo, le guerre, il sangue, tutto insieme. Gino Strada è quello che gestiva l'ospedale ed era fiero di curare quei dei talebani, così li curava e poi uscivano e uccidevano ancora gente. Sì. Cioè Gino Strada è una persona che funziona a un livello umanitario molto più alto della mia abilità. Io sono una persona, non ho la sua elevazione morale dove tutto è lo stesso, cioè lo Stato Islamico è uguale alla Croce Rossa svedese, sì, l'Italia è uguale al Giappone, l'Afghanistan è uguale al Paraguay, questo è Gino Strada. Per lui non ci sono terroristi. Perché tu come lo consideri Gino Strada? È pericoloso? No, ai tempi del comunismo li chiamavano idioti utili. Ah, utili idioti. Utili idioti. L'Islam non si accorge di Gino Strada, ma se l'Islam conoscerebbe l'esistenza di Gino Strada lo chiamerebbero un idiota utile. Un idiota utile a loro, diciamo, utile al... Beh, è un termine tecnico, non è un insulto. No, per carità. Termine... Beh, tu sì. Puoi vedere su Wikipedia, è un termine tecnico, cioè, è un termine usato da un comitem. Sì? Come no? Ricordo... I comunisti, c'erano i seguaci, poi c'erano gli idioti utili. Ma adesso bisogna bombardare, dopo gli ennesimi attentati, cioè bisogna bombardare... Bombardare chi? Chi vuole bombardare? Stato Islamico, bisogna distruggere... Lo Stato Islamico... Bombs. Lo Stato Islamico è un'ideologia. Se vuoi bombardare lo Stato Islamico, puoi risparmiare il carburante, non devi andare fino alla Mesopotamia. Tu puoi bombardare Molenbeek. Ah, bombardare come? Molenbeek. Ma no, sì, esatto, ed è caratteristico del funzionamento di questa cosa chiamata l'Unione Europea. Tutto questo succede proprio nel cuore di Bruxelles. Dunque sarebbe più perché semplice... Perché non si sono accorti, evidentemente, questi funzionari che lavorano giorno e notte per regolare le dimensioni del tappo della bottiglia e di permettere che il lardo sia nel marmo, no, non si sono accorti che intanto stavano preparando un campo armato di fronte ai loro uffici. Va bene, bravo. Professore, grazie, arrivederci. È iniziata l'apocalisse. Dal 31 marzo Renzo Martinelli al cinema con il suo nuovo film Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, secondo me. Per più di 30 anni, ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24, il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo! Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Lunedì 28 marzo alle 15 e alle 21.30 su Radio 24. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. La Zanzara è un programma della Madonna. Allora ragazzi, ascoltatori, dopo l'intervista a Luttwak in cui dice che bisogna bombardare Molenbeek, è molto meglio bombardare Molenbeek piuttosto che lo Stato Islamico, e poi ha detto di Gino Strada che è un utile idiota dei terroristi, utile ai terroristi, anzi. Giovanni da Livorno, vai veloci, poi collegamento con Los Angeles con Valentina Nappi che è in attesa, Vai, ciao, Giovanni. Ciao Giuseppe, ciao, senti, brevemente, volevo chiedere a D'Alema di perorare la causa anche dei rastafariani, in modo da farci avere con sì, i soldi. Sì, questo è interessante, pubblici. Questo è interessante. Voglio fumare con i soldi dei cittadini italiani, Cruciani. Perché tu sei rastafariano anche tu? No, ma lo divento volentieri se mi passa. Sì, ma perché non facciamo l'8 per mille ai cosi, invece delle comunità islamiche, facciamo perché l'8 per mille sciocchezza. Ai che ne so, ai pastafariani, quelli che mangiano la pasta. Anche i pastafariani, ottimo. Perché ottimo. No? Ma perché no? Non bisogna dare soldi pubblici a nessuna chiesa, punto e basta. Questo è uno Stato con le palle, non un po' agli islamici, un po' la Chiesa cattolica. No, ma in realtà è soprattutto un po' per l'erbettina, Cruciani? Beh no, come sai... In realtà è su base volontaria. Come sai, caro David, non è così, perché gli accordi prevedono dei soldi. No, uno può decidere di destinare. Però la parte in cui che resta, la parte che tant'è che oggi Civati ha fatto una proposta, che la è quella... parte che resta in genere va allo Stato. No, ma viene data in parte viene data anche alla Chiesa Cattolica. No, assolutamente. Ivan da Palermo, vai. Va allo Stato. Ivan Palermo. Giuseppe, buonasera, ciao David. Piena solidarietà, sono stato anche vittima, come dicevo, alla tua redazione, di un'aggressione da parte di animalisti nel 98. Perché? Che hai fatto? Avevamo un ristorante all'estero, durante la festa della cittadina abbiamo organizzato nello spiazzale retrostante, cioè davanti al ristorante, una grigliata. Quindi la gente era seduta fuori, stava divertendo, ci divertivamo. Sono arrivati tre coglioni come quelli che sono venuti oggi lì giù da te, con gli estintori, hanno fatto un macello naturalmente. Immagina la confusione. E poi in Germania sono tosti, mi sa. In Germania sono tosti. Aspetta, la Germania, tra le altre cose, è il primo paese al mondo per il consumo di carne di maiale e di capre. Quindi dico, siamo sempre lì. Quindi dico, è successo un macello. Poi mi volevo ricollegare un attimo, se me ne dai la possibilità, al discorso fatto da Red Ronnie, che rispetto e stimo tantissimo, però ha detto un qualcosa che non mi ha convinto appieno. Ha detto che bisognava giustificare queste persone perché tu sei andato lì col salame o perché comunque hai manifestato il tuo menefreghismo in senso verso i vegani eccetera, dicendo che li hai provocati perché sei andato lì con un salame. Dico io, alle provocazioni che susseguono poi alla violenza da parte degli animalisti sono sempre molto restio, perché allora dobbiamo anche giustificare, come ho sentito dire a qualche testa di cazzo, gli extracomunitari che a Colonia la sera di Capodanno hanno siccome vedevano qualche nudo minigonna. Ma che cazzo vuol dire? Io sono libero di uscire in minigonna col culo, e io di sono libero di portare un salame per darlo agli animalisti, per offrirlo anche come gesto, come dire, di colloquio, no? Come assolutamente, assolutamente. Ma hai ragione, bravo Ivan, bravo, ciao, ciao. Assolutamente. Allora, in collegamento da Los Angeles, caro Parenzo, poco prima di Pasqua, Valentina Nappi, ciao Valentina, come stai? Ciao. Come andiamo? Quante gangbang hai fatto negli ultimi giorni? Nessuna. Come nessuna, amica mia? Come niente? Ragazzi, è Pasqua anche per il porno. Quindi. No, ma ho capito, perché l'ultima gangbang che hai fatto... Però giro a Pasquetta. Giri a Pasquetta, ma l'ultima gangbang di qua... Anche se qui Pasquetta non esiste. Ah, appunto. Quando l'hai fatta? Penso l'anno scorso. L'anno scorso? Ma sì, quest'anno però era solo DP. Solo, scusa? DP, doppia penetrazione. Ah, solo DP, che è doppia penetrazione, DP. Capito? Si parla in gergo. Io pensavo che DP fosse democrazia proletaria, penso un po'. Perché pensavo c'era... che la sigla DP fosse del mio glorioso partito, democrazia proletaria. Caro Capanna, i tempi sono cambiati. La sigla Mi DP... Mi pare invece che qui ci si occupi di altri manganelli, comunque la sigla... non importa. Ne sa che... Mi sa che fa più democrazia. Mi pare che qui, anziché democrazia, le aule di università, no, ma è stupendo, perché DP effettivamente ogni volta che ci penso, no, che vedo DP la sigla, è democrazia proletaria davvero. Sì, ma lo so. Senti Valentina, andiamo subito al sodo. Pochi giorni fa Rocco Siffredi ha detto che sei una grandissima stronza. Beh, grandi polemiche della una figa di legno, ecco. Per aver detto, perché tu hai detto delle cose su Moana, poi ha aggiunto altre cose, ma rimaniamo innanzitutto alla grandissima stronza e figa di legno. Che vuoi dire? Allora, la storia è questa. Io sono diventata figa di legno dopo 4 anni. Questa è un po' strano, no? Io sono andata bene fin quando giravo con lui. Adesso improvvisamente diventata figa di legno. Così come, tra virgolette, parlavo male di Moana, ma non mi sembra di averla mai insultata. Sì. Semplicemente, sai, i giornalisti gli fanno sempre domande su Moana. Sì. E io ho semplicemente detto che non è un mio modello di riferimento, e non è, diciamo, è un modello di donna, non voglio dire stereotipato, ma è quello che ci si aspetta dalle donne. Cioè, non ti piace detto... Moana, non ti piace Moana Pozzi, mi sembra una... Non è tra i miei idoli, non è che deve piacermi per forza, mi sembra, sì, no? Ma lui ha detto, sei una grandissima stronza addirittura, una figa di me. Sono stata una stronza con lui, perché? Io ho cominciato, diciamo, ad evitarlo da quando ha fatto la sparata sull'isola. E perché? Gli anni 6, come si dice a Napoli, del... non so se vi ricordate. Ah, quello sulla dipendenza, sulla dipendenza dal sesso. Sulla dipendenza. Insomma, da lì in poi, più o meno, ha cominciato a dire cose antiporno. Non è che non ho portato a parlarti, onestamente ho pensato che fosse depresso, sai, passi tre mesi su un'isola, non vedi la tua famiglia. E invece, invece ci marciava? Quando ho provato a parlargli, gli hanno risposto, tu non puoi capire, il porno ti ha rubato l'anima. E ho detto, vabbè, è partito. E quindi da... Cioè, non ho capito, allora, per te era tutta una finta? Per te era tutta una finta? No, allora, non lo so se è una finta o meno, se sta semplicemente esplicando il personaggio, oppure lui ha effettivamente i dubbi. Cioè, ma ci credi a questa cosa qui del fatto che è guarito dalla dipendenza del sesso, questa roba qui, oppure per te... Ma non mi interessa, quello che mi interessa è il fatto che lui è un personaggio pubblico di grande rilevanza, non può mettersi a fare l'antiporno. Se ti metti a fare l'antiporno, ti metti contro di me. Sì, questa è la storia. Poi ha detto che non sai fare i pompini, che eri, che eri ingessata e presuntuosa quando facevi le gangbang con 100 uomini, cose di questo tipo, ma è vero o no? Beh, non avrebbe dovuto chiamarmi per la scena dopo, allora, se facevo così. Abbiamo fatto un'altra scena dopo con 8 o 10 dei ragazzi della gangbang. Tra l'altro questa gangbang l'ho fatta gratis. Questo non l'ha detto, perché sono una grande ciega di legno. Per cui non l'hai, nemmeno ti pagava, non ho capito. No, io avevo proposto di... Per me era un sogno che si realizzava. Per cui ho detto, no, guarda Rock, non voglio soldi, non voglio soldi. Perché con, se non sbaglio, non ho 53, cioè, ragazzi. Riuscivano... a partecipare effettivamente, per il resto ho passato il tempo a fare le seghe e i pompini per riscaldare. Vabbè, ma io non ho capito una cosa, ma al di là dei dettagli, ma perché ce l'ha tanto con te allora? Perché non te lo sei più filato? Perché non sei... credo che quello che l'ha fatto proprio incazzare sia il fatto che non l'ho salutato agli IVN, che sarebbero gli Oscar del porno. Ah, proprio, non te lo sei più filato, cioè il punto è che tu non lo consideri più... Ma secondo te è finito, cioè da un certo punto di vista è finito come attore porno oppure ancora è valido? Deve saperlo lui, non lo so, lui è il suo... Ma perché, io non credo, per esempio Cicciolini è un tuo modello. Sembra un po' questa, come la sfida tra Repubblica e il Corriere, no? Cioè quello tra, la sfida tra... No, scusa se uso... No, tra il... no, ma in realtà non è tanto, ma così, tra come il vecchio... la sfida, cioè, chi vende di più tra Repubblica e il Corriere? No, in realtà è diverso, è tra il vecchio e il nuovo, cioè dovrebbe essere rottamato secondo te Rocco Siffredi? Non lo voglio dire, no, secondo me dovrebbe aprirsi, dovrebbe superare il suo modello di maschio alfa e dare il culo, secondo me. E dare? Il culo, in tempo di, sai, family day e cazzate varie, secondo me farebbe benissimo a fare un film gay in cui lui partecipa. Ah, cioè un film in cui è passivo, in cui è passivo, dici? Una volta tanto, questo è buono. Tu gli stai dicendo, caro Rocco, fai qualcosa, diciamo, per la società, fai un film gay in cui sei anche passivo. Vabbè, come lo vuoi definire? Qualcuno lo definisce gay, qualcuno no. Vabbè, insomma, quello... non è gay, poi non lo so. Sì, no, certo. Senti, ti voglio chiedere una cosa prima di chiudere il collegamento. Secondo te noi il terrorismo, sai, Bruxelles, queste cose qua, tu sei una che scrive su Micromega, ma ce la siamo un po' andata a cercare con le nostre imprese, diciamo, in terre d'Oriente oppure no? Non lo so, non sono un'esperta di geopolitica, sinceramente, tra l'altro parlare adesso... di terrorismo e geopolitica è un po' come parlare di diritti delle donne alla festa della donna. Io eviteresti. E Salvini che si è messo a fare le foto subito dopo davanti all'aeroporto. Ho visto qualche meme, non ho trovato la notizia. Si è messo a fare delle foto subito dopo. Qualcuno l'ha chiamato sciacallo, eccetera eccetera. Vabbè, lo è sempre. Ho visto soltanto i meme, non ho visto la foto attuale. Quindi non lo so. Questa foto di lui al cellulare No, qualcuno ha visto. Ma come passa la serata? Sto tornando a casa, butta la pasta. Come passa questo venerdì di passione? Perché così si chiama. Ma è a Los Angeles, amico mio. Ho capito, la nostra Nappi, come passa il venerdì di passione? Ma che gliene frega della Pasqua? Ho detto di passione, ho detto. Ma la passione di chi? Ma è la passione di Cristo in teoria, Beh, cioè, teoricamente è quella nella nostra, che per qualcuno è la passione tua, non è mica la mia. No, ma la mia nemmeno, è nemmeno quella di Parenzo, che come dice sempre, di un'altra parrocchia. Ma tu ci credi a quella tizia là che ha fatto una gang bang con 919 uomini, quella là, Lisa Sparks? Vuoi raggiungere questo record anche tu? No, non credo che il sesso sia una corsa per cavalli, no. Per cui non credo sia quello il punto, non è quanti cazzi prendi o per cui non è vuoi un di quantità, non vuoi raggiungere non vuoi raggiungere quel record là. No. Senti, mi piacerebbe poter soddisfare quante più persone possibile, però cioè, da lì il massimo che record, il massimo che vuoi raggiungere quant'è? Che ne so, 200, 100. Ma io te l'ho detto, non è un fatto di numeri, vabbè. Non riesco più a parlare. No, ma ho capito di qualità. Beh, sai, la quantità di solito diminuisce. Qualità non quantità. L'ho capito, però di solito la quantità più tanti sono e più la qualità diminuisce. Senti, un'ultima cosa, ma secondo te i vegani lo fanno meglio? Sì, tu che sei un'esperta di queste cose, come c'è una discussione che riguarda i vegani. Lo fanno meglio o no? O è una cazzata? Non lo so. Non te lo sei mai posto. Cioè, esistono delle porno star vegane, dei porno star vegani, no? Ah, forse ho provato, forse sono un vegano, ma lui mi ha detto di no. Cioè? Cioè che non cambia nulla? Mi ha detto di no, perché non volevo scopare. Che non, beh, perché? Non lo so. Forse perché non sono vegano, magari. Mamma non lo so. Mia. Ma pensate uno che si è rifiutato. Si è rifiutato perché non eri vegana. Vabbè, cara, ciao, presto. Ciao, presto. Ciao. Ragazzi, però Luca da Cuneo c'è o no? Siamo troppo tardi. No, siamo buona Pasqua, Ciao, ragazzo. Ci sentiamo martedì, ragazzi. Sì. Martedì. Sì. Viva la zanzara, sempre martedì. Ciao. Il viaggio da Washington a Boston con la zanzara in sottofondo. Siamo proprio al top. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.